Cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo! In povertà mia lieta scialo da gran signore, prime dinne d'amore. Sogni per chimere, per castelli in aria. L'anima ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. senza tiedi le bramine u froino di del miele appelle lentement la fuma la priere Yeah. e il bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, vita in fonde il giubilo. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, vita in fonde il giubilo. Che è sincero e che ci allieta ogni pensiero e che affoga l'umor nero nell'ebbrezza tenero. Viva il vino che è sincero e che ci allieta ogni pensiero e che affoga l'umor nero nell'ebbrezza tenero. Ecco ai nostri amori. Ecco la fortuna vostra. Ecco beviam. Ecco proviam. E dove sei nato? E dove sei nato? Avverasse. Un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di Menfi tutta. E a te mia dolce Aida tornar di là un ricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. soudaine clarté resplendit dans cette fenêtre. Oh, Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Sfiorava l'arena. sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non lima amore. La donna è mobil, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier, e di pensier. Fatale vision mi lascia. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tremano d'amore. così dolce restar qui, c'è freddo fuori. E starò vicino. E al ritorno thank you.

più cercando io mamma, sì mamma, lo vedo. Palpiti del suo bel cuore sentir, i miei sospiri confondere per poco a suoi sospiri. I palpiti sentir, confondere i miei co' suoi sospiri, cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Si può morire, si può morire da recitar, mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure Eduapa sforzati. Singhiozzo e il dolor, oh! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh mio rimorso infamia, io vissi in tal errore, ma il turpe sonno frangere, il vermi malerò. Per poco in seno acquetati, o grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice, questo un tal lavero. O mio suor, o infamia, o se questo un tal lavero, si lavero. O mio suor, o infamia, o se questo un tal, si questo quest'onta la vero. O mio rimorso infamia, io vissi in tal errore, ma il turpe sonno frangere, il vermi malerò. Per poco in seno acquetati, o grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice, questo un tal lavero. O mio suor, o infamia, o se questo un tal lavero, si lavero. O mio suor, o infamia, o se questo un tal, si questo un tal lavero.